Festa di Radio Onda Rossa. 47 anni senza padroni né padrini. La radio di chi voce non ce l'ha. Venerdì 24 maggio, dalle 18 alle 22, aperitivo. A continuazione Radio Onda Rossa si racconta. Un anno di radio. Per finire, DJ set Good News e La Cicala. Sabato 25 maggio, a partire dalle ore 19, Gazza Ora, Messages from a Dear Friend, letture dei messaggi da Gazza di Hossam, a cura della compagnia teatrale londinense Arts Theatre e della compagnia teatrale della striscia di Gazza Theatre for Everybody. A partire dalle ore 22, concerto di Karima e da Barcellona, la rapper libanese Sabine Salamé. Cena a cura della cucina di Radio Onda Rossa. Domenica 26 maggio, cena a cura di Radio Onda Rossa. A partire dalle ore 18, l'incontro verso il Pride 24. Nessun pinkwashing sui nostri corpi. E alle ore 21.30, Luoghi Amati, spettacolo narrativo con Viola Lo Moro e Sonno, e musica di Bernardo Grosso.